giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Presentata la proposta di legge che regola l'installazione di impianti di energie rinnovabili sul territorio. 25.000 persone affette da malattie rare in regione. A Udine il punto sulla ricerca e sulle possibili terapie. Anziano intossicato dal monossido a Tricesimo salva la moglie allettata con maschera a ossigeno. Un centinaio i visitatori alla giornata a porte aperte del servizio del numero unico per emergenze 112, operativo da Palmanova. A Trieste è celebrata la giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, proclamata 10 anni fa dall'ONU. Per la rassegna Un viaggio da fare, a Milano l'incontro omaggio a Carlo Kmicka-Stetter, Gorizia e Mitteleuropa. 12:31, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. I lavori del Consiglio regionale in quarta commissione permanente. Questa mattina l'illustrazione del disegno di legge sulle norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili proposto dalla Giunta regionale. Sentiti anche i firmatari della petizione contro la realizzazione di un maxi impianto nel comune di Romans di Sonzo. Gli obiettivi della legge sono minimizzare l'impatto sul territorio e sul patrimonio garantendo le attività agricole e regolando il fotovoltaico a terra. Ad illustrare il disegno di legge 38 è stato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro. La proposta di legge punta a riqualificare gli spazi urbani, quelli dismessi o di minor pregio e parallelamente limitare la proliferazione delle aree non idonee e vietate. Scoccimarro ha precisato che la valutazione sarà positiva solo se la superficie agricola contigua sarà pari ad almeno 9 volte la superficie occupata dall'impianto e se la copertura della superficie dell'impianto stesso da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia, non supererà il 3% della superficie agricola del territorio comunale. La legge, secondo il consigliere Onsel, tra i primi ad applicare agli auditi, sarebbe carente sulla questione dell'approvvigionamento e della rete, una mancanza tecnica che hanno posto numerosi portatori di interesse. Una lunghissima lista, tra questi Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico, Legambiente e le società energetiche. Tra i primi ad intervenire il sindaco di Romans, Michele Caligaris, che ha sottolineato la necessità di regolamentare l'installazione di impianti a contatto con il contesto urbano nel suo comune e ha portato all'attenzione una petizione firmata da 780 cittadini a testimonianza della preoccupazione della comunità su questo tema. Trieste, Andrea Marucic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il 112 Day, la giornata dedicata al numero unico per le emergenze, a Palmanova la Protezione Civile Regionale ha organizzato un Open Day che offre ai cittadini la possibilità di visitare la centrale operativa NUE 112, oltre 600.000 chiamate in un anno, metà delle quali inappropriate. Abbiamo parlato del servizio gestito dalla Protezione Civile che dallo scorso 31 dicembre si occupa anche della risposta agli incendi boschivi in zone non antropizzate e il ruolo del 110 con il coordinatore Fabio Toffanini. Qui il punto di Palmanova diventa sempre più nevralgico per quanto riguarda la gestione dei soccorsi in Friuli Venezia Giulia, perché ad oggi ospitiamo 2 PSAP 2, ricordiamoci quello sanitario e quello della protezione civile, e un PSAP 1, il numero unico di emergenza, il servizio unico europeo 112, che si occupa di ricevere tutte le chiamate di emergenza, anche quelle afferenti alle vecchie numerazioni come il 113, 115, viene tutto smistato qui e poi in base alla localizzazione e alle necessità di soccorso del cittadino la chiamata viene smistata. Non è solo uno smistamento. Durante l'intervista del NUE, molto breve, ricordiamoci dura circa 50 secondi, vengono acquisiti i dati di localizzazione, identificazione del chiamante e viene inserita una macro categoria del tipo di soccorso che questo necessita. Quando trasferiamo poi la chiamata al secondo livello, tutti i dati acquisiti sono già disponibili in una scheda contatto che compaiono a video dell'infermiere, del vigile del fuoco o del carabiniere o del poliziotto. Il vostro ruolo è importante anche come filtro, perché tante chiamate sono inappropriate. Sì, confermiamo il dato statistico, lo sappiamo da quando siamo partiti, 2017 ad oggi, anche gli ultimi dati recentissimi del 2024 confermano che metà delle chiamate che arrivano qui all'112 sono inappropriate. Queste non vengono smistate ai secondi livelli, che pertanto possono proseguire a lavorare effettivamente nella gestione di vere chiamate di emergenza, non perdendo tempo su cose inutili. Palmanova, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo dell'intervento dei vigili del fuoco di Udine ieri a Tricesimo per un'intossicazione da monossido di carbonio. Il marito è stato male, la moglie allettata e con maschera di ossigeno è stata invece salvata dall'avvelenamento grazie al dispositivo medico. Sentiamo. Lei, 67 anni, è salva perché allettata era attaccata a un respiratore ad ossigeno. Lui, 77 anni, è salvo perché la dottoressa che l'ha visitato al pronto soccorso nel pomeriggio ha notato valori anomali nel sangue. Potevano essere ben più gravi, fatali, le conseguenze dell'intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione di Tricesimo. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco su mandato della procura, ma le cause sarebbero già state accertate. La perdita di monossido è stata localizzata nella caldaia a seguito di un montaggio non a regola d'arte dell'impianto di scarico dei fumi. Caldaia che era stata installata appena una settimana prima. Il marito, che oggi è trattato in camera iperbarica a Cattinara, si è sentito male intorno alle 15 di ieri, al pronto soccorso di Udine, rilevato un elevato tasso di carbossemoglobina. Dall'ospedale la chiamata ai vigili del fuoco del capoluogo friulano. Giunti sul posto hanno prestato soccorso alla moglie. Lei è in osservazione. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Nella serata di ieri anche la vicina di casa, che nell'arco della giornata aveva assistito i due coniugi, è stata presa in carico dai sanitari. Dai vigili del fuoco l'invito ad accertarsi che i lavori sulle caldaie siano eseguiti alla perfezione. Si tratta di impianti che in caso di malfunzionamento possono rivelarsi mortali. Tricesimo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora la cronaca: doveva scontare 2 anni e 8 mesi di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Per tali motivi un 42enne bosniaco è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Barcola durante un servizio finalizzato proprio alla ricerca di persone da catturare. Dopo gli accertamenti è stato spostato alla casa circondariale di Trieste. I fatti per cui era ricercato erano stati commessi a Brescia nel 2000 e riguardavano lo spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Continuano incessanti quindi i controlli dei militari al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica e di prevenire e reprimere azioni delittuose. Processo Regeni, continuano le udienze. Oggi sono in programma le testimonianze dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e dell'ex ministra Federica Guidi. Domani dovrebbero esserci l'ambasciatore Valensisi, l'ex presidente Fico, Calenda e Al-Sisi, padre e figlio. Ma fa notare l'avvocata Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, gli Al-Sisi inopinatamente hanno rifiutato la citazione a comparire. Ci sono queste buste con su scritto rifiutato. Noi comunque lo abbiamo citato in tutti i modi possibili. Sarebbe bello che qualcuno dopo 9 anni si assumesse la responsabilità e ha aggiunto: testimoniare è un obbligo, se non vuole qualcuno in teoria dovrebbe andare a prenderlo e costringerlo a venire. Purtroppo non sarà così. E adesso ci spostiamo a Pontebba, dove siamo andati a vedere la situazione una settimana prima dell'inaugurazione dei nuovi servizi dell'autoporto. Fin quando non c'era il libero accordo di circolazione delle merci in Europa, all'autoporto di Pontebba lavoravano 16 case di spedizione. Quelle rimaste sono 2. Poi negli anni bui, fino al 2022, era rimasto un parcheggio vuoto. L'infrastruttura, grazie a un pool di imprenditori che forniscono servizi anche al ben più frequentato Brennero, al Brennero possono diventare un'alternativa, magari sognando in futuro di diventare un hub intermodale grazie alla vicinanza con la ferrovia. I camion ora sostano la notte e partono presto dopo aver fatto rifornimento qui. Gli investimenti hanno permesso di ritornare sul mercato, auspicando tempi migliori e traffici in crescita da e per il nord-est dell'Europa. Emanuele Facchin, amministratore delegato Autoporto Pontebba. Qui abbiamo fatto un investimento di quasi 5 milioni di euro, ovviamente il gruppo Plose lo ha fatto. Una prima fase è stata quella del distributore, dopodiché nell'ultimo anno abbiamo realizzato i lavori di ammodernamento dello stabile che era ex dogana, abbiamo spostato la dogana e qui abbiamo realizzato la pizzeria, dei bagni con docce per i professionisti di trasporto. servizi per camionisti che hanno un'alternativa confortevole alle piazzole in autostrada o alla sosta selvaggia lungo le statali. L'idea è quella di riuscire a diventare anche un punto di ristoro per i pullman turistici, sfruttando la vicinanza con lo svincolo autostradale. È chiaro che su un camion c'è una persona, su un pullman ce ne sono 50, perciò noi che oltre al discorso distributore abbiamo ristorante, pizzeria e bagni, stiamo puntando anche su questo settore. Pontebba, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. La viabilità sulla A23 Udine-Tarvisio per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza dalle 22 di venerdì 14 fino alle 6 di sabato 15 sarà chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione Udine. Come alternativa, una volta usciti alla stazione, si potrà proseguire sulla statale 13 Pontebbana verso Udine e sulla statale 52 Carnica verso Tolmezzo e rientrare in A23 alla stazione di Carnia. E ora uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione. Le temperature registrate alle 11. A Trieste, Pordenone e Gorizia 9 gradi, a Udine 8 gradi e 5 decimi. A Tolmezzo 6 gradi, a Forni di Sopra 5 gradi, a Tarvisio 1 grado e 5 decimi. Sul Piancavallo 2 gradi, a Sappada 2 gradi e mezzo. Sul Monte Lussari meno 1 grado, sul Monte Zoncolan 5 decimi di grado sotto lo zero. Sulla costa Lignano 9 gradi, a Grado 9 gradi e 5 decimi. E ora le previsioni per oggi, con cielo in prevalenza coperto, con possibili nubi basse sul Carso. Dalla sera saranno possibili delle deboli piogge sulla fascia orientale. Proseguiamo con le notizie del giornale radio. Minacce, insulti, casi di cyberbullismo sempre più diffusi tra gli studenti. Se n'è parlato questa mattina in occasione del Safer Internet Day a Trieste alla scuola Morpurgo. C'era per noi Francesca Jacot. Buongiorno da Trieste, mi trovo all'Istituto Comprensivo ai Campi Elisi. Qui si svolge, come in tutta Italia, uno degli appuntamenti dedicati alla sicurezza sul web. Oggi è il Safer Internet Day e mi ha raggiunto la dirigente scolastica della scuola, Raffaella Cervetti. 1100 studenti che voi sostenete giorno per giorno, anche per assicurarvi che il benessere della comunità scolastica passi pure dalla rete. Voi avete un gruppo digitale, cosa significa? Abbiamo un gruppo digitale e anche un gruppo specifico per il contrasto del cyberbullismo e del bullismo. Significa attenzione quotidiana alle esigenze, alle richieste, ai segnali che le nostre ragazze e i nostri ragazzi ci lanciano, e comunicazione costante, dialogo con le famiglie e renderci possibilità concreta e riferimento per qualsiasi bisogno che si possa venire a sviluppare. Oggi ci sono un centinaio di ragazzi che incontrano le forze dell'ordine e il questore Ostuni proprio per avere degli strumenti in più e sapere a chi rivolgersi quando si trovano a disagio nella rete. Quali sono le curiosità o la curiosità che secondo lei deve essere subito spianata nei loro confronti? Mi sono raccomandata che oggi ci sia molta attenzione, così come noi l'abbiamo verso di loro e tante persone e autorità del territorio hanno voluto essere presenti oggi, anche loro devono essere veramente presenti, quindi proattivi. È molto importante che sentano l'urgenza di utilizzare gli strumenti e la rete in modo consapevole. Sono stati una grande opportunità la rete per loro, soprattutto in momenti in cui siamo stati obbligati alla distanza. Adesso bisogna far tesoro di ciò che la rete può regalare e invece evitare tutto ciò che è abuso di questo strumento. Grazie mille. La dirigente scolastica, studio. E ora tappa a Udine per la campagna Uniamo le Forze, che si svilupperà con 60 iniziative in tutta Italia fino alla giornata delle malattie rare che è prevista il 28 febbraio. Sentiamo. In Friuli Venezia Giulia si stima siano 25.000 le persone affette da una malattia rara. A Udine un convegno dedicato a queste patologie organizzato dalla Federazione Uniamo, che riunisce 200 associazioni con il coordinamento regionale malattie rare dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, riferimento italiano ed europeo, in particolare per le malattie metaboliche ereditarie. Maurizio Scarpa, direttore Centro Coordinamento Regionale Malattie Rare. Ci sono delle malattie che rappresentano un problema di sanità pubblica, perché sono malattie croniche dalle quali non si guarisce il 95% non ha terapia e sono malattie multisistemiche perché non coinvolgono solo un organo ma l'intero organismo, quindi hanno bisogno di un gruppo multidisciplinare di medici che prendano in carico il paziente. Dal punto di vista tecnico, quello che noi abbiamo bisogno è soprattutto una diagnosi sempre più precoce e quindi sviluppare in regione soprattutto lo screening neonatale, e soprattutto quello che noi abbiamo bisogno è di sviluppare il nostro centro di coordinamento, perché sta diventando sempre più importante accogliere pazienti che trovano soltanto nel centro di coordinamento l'esperienza e la capacità di trattamento. Le malattie rare colpiscono 5 persone ogni 10.000, tra il 30 e il 40% sono bambini e bambine, ma con un numero di diagnosi in aumento per gli adulti. Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo. Con il Piano Nazionale Malattie Rare abbiamo bisogno che venga attuato, quindi che vengano costruiti percorsi che danno diritto a una diagnosi precoce, a una presa in carico che esula dalle liste di attesa, alla possibilità di avere terapie anche riabilitative e trattamenti farmaceutici per quanto ci sono. Udine, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo ancora che oggi è la 33esima giornata del malato che la Chiesa celebra ogni anno nella memoria della Beata Vergine di Lourdes l'11 febbraio. A Trieste, nella chiesa parrocchiale della Madonna del Mare in piazzale Rossini, il vescovo Monsignor Enrico Trevisi presiede la Santa Messa alle 16, preceduta alle 15:20 dalla recita del Rosario. A Udine l'arcivescovo Monsignor Riccardo Lamba presiederà una Santa Messa alle 16 in Duomo, animata dalla sezione udinese dell'Unitalsi, alle 15 il Rosario. La celebrazione si concluderà con la processione all'interno della chiesa. A Gorizia, rosario meditato e messa nella giornata del malato alle 15 nella chiesa dei Santi Giovanni di Dio è giusto. La giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza, proclamata 10 anni fa dalle Nazioni Unite, promuove l'uguaglianza di genere nella scienza. Per il 4º anno le scienziate di Elettra, Sincrotronne e Trieste rinnovano l'impegno divulgativo in 4 scuole superiori di Trieste. È donna più della metà degli studenti universitari della nostra regione, ma nei percorsi scientifici la parità è lontana. Su 10 ricercatori solo 3 sono donne e statisticamente hanno meno probabilità di ricevere finanziamenti o di occupare ruoli di comando. Oggi, nella 10ª giornata internazionale per le donne e ragazze nella scienza, le scienziate di Elettra Sincrotrone Trieste sono andate a parlare alle studentesse e studenti di 4 scuole superiori. Maia De Simoni, responsabile della comunicazione di Elettra. Le attività che noi promuoviamo sono attività di ispirazione per le ragazze, per le studentesse e per le donne giovani che possono pensare di scegliere delle professioni in questo ambito, dando il loro contributo esattamente come gli uomini. Siamo nell'aula magna dell'Istituto Tecnico dell'Edda Fabiani, dove l'ingegnera Benedetta Marmiroli ha parlato alle aspiranti dottoresse, dentiste e tecniche di laboratorio. Fare ricerca non è facile, ma ci si può arrivare con pazienza e facendo un po' di sacrifici, però. Soprattutto per le donne? Per le donne è un pochino più difficile ancora. Io ho molta fiducia nelle prossime generazioni che le cose cambieranno invece. La studentessa Vala Amara. Pensi che le donne siano in qualche modo più discriminate nell'ambito scientifico? Abbiamo fatto quest'anno un progetto a scuola di educazione civica in cui abbiamo parlato anche di questo e abbiamo visto, diciamo, le differenze tra anche le percentuali tra uomini e donne, e secondo me si sono discriminate anche nell'ambito scientifico. La studentessa Stefanie Dalmolin. Nel momento in cui tu vai a fare il colloquio potrebbero chiederti sì, però tu sei una donna, potresti avere la maternità, io devo assumere un'altra persona nella maternità, sono tutte cose sbagliate e ritengo che devono essere cambiate ormai. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora parliamo della rassegna Un viaggio da fare 2025, curata da Massimiliano Finarzer Flori, rassegna che si tiene a Milano nell'arena della libreria Mondadori in Piazza Duomo. Alle 18 è in programma l'incontro omaggio a Carlo Michelstetter, Gorizia e Mitteleuropa, con il filosofo della musica Quirino Principe e lo stesso Massimiliano Finarzer Flori. Finarzer Flori che ha anche curato il docufilm dedicato al pensatore goriziano dal titolo Nel tuo occhio. A quest'ultimo abbiamo allora chiesto cosa rappresenta oggi Carlo Michelstetter. Michelstetter rappresenta l'entusiasmo del giovane, la solitudine dell'antico e il disincanto del presente. Sembra quasi che questo ragazzo, la cui vita è durata così poco, ci presenti una storia così lunga. Si può dire certamente che egli ci consegna con la sua lotta contro la persuasione intesa come visione passiva al presente, un'altra idea di linguaggio, un'altra idea probabilmente di uomo. Bisogna considerare che lui è un greco dal punto di vista filosofico, ebreo nella sua appartenenza, italiano per scelta, ha gli amici sloveni, diremmo noi oggi, e in un'epoca in quella Gorizia all'interno di un contesto austro-ungarico, che dire, un flusso di coscienze che ne fanno una figura appunto favolosa. Lei ne fa un docufilm, quali aspetti vuole sottolineare? Prima di lasciarci, Mikestet dice in greco io mi spensi, io vorrei che gli scrivesse io mi accesi. La sua luce ancora c'è, nel tuo occhio vuol dire mettersi nell'occhio di colui che ha visto profeticamente o scegliutamente ciò che siamo stati e ciò che siamo ancora. Sì, mi piacerebbe che questo docufilm in qualche modo ci consegnasse anche speranza, anche, come dire, fede nei confronti della poesia, nei confronti della cultura. Secondo lei è una figura che andrebbe studiata di più? Assolutamente, anche perché dobbiamo sottrarci da quell'idea della rivoltella, del suicidio. In realtà Mikestet non muore lì, anzi forse comincia a nascere lì come riflessione e rappresentazione. Soprattutto se la poesia cerca il bello, se la filosofia cerca la verità, Mikestet è riuscito a mettere d'accordo poesia e filosofia. Questo è molto molto interessante. E questa era l'ultima notizia del giornale radio. Noi ci lasciamo con i saluti da parte dei tecnici che hanno collaborato con noi e Mauro Cumin e da Rita Micoli e Dario Ronzoni un augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.